nessuna, nessuna. Anche Doretta, Doretta, chi sarebbe? La mia nuova eroina, una cara donnina che fu presa dal mare. E immortala e tal quale nell'ultima canzone. La vogliamo sentire! Ne potreste soffrire! Non fatemi pregare!

Thank you.

se troppo insolente. Avanti dunque, indica con la meta. Ti ringrazio. Dove tu partiamo? Dove ne saremo? Ci vuole una parola. Ci vuole una parola. E per noi siete come voi. Tagliatemi. Non si intona con il resto.

participio ora sul naso. Chi è mai vista? se mi confondo a dar lezione e per rifarti l'educazione quest'egno compito sarà un diavolo ciò chi ama non guardo ostacolo ti rifarò ma sei più pallido se guardi in giro thank you. non è lei, no, no, guarda bene. Sono, non sono la sua cameriera. Lo sei, ma non di lei che non è lei, ma sembra lei, ubriaca Cherry. La mia vita, Vicente, vuol sapere se un suo consiglio mi portò fortuna. Lo vedete? È carina, volete presentarmela? La mia amica Colette. Sei convinta, Vicente? Il signore è un poeta, amico tutto, amico di mio padre, e quindi amico vostro. Ne son proprio onorato. Che cosa m'ha turbato? Continuate a mormorarvi. Non sono a capezzarvi, ma c'è una persona che mi appare il vostro ritratto. E chi sarebbe? Ma no, la mia padrona è una sua fissazione. La padrona è carina come lei, se lei fosse elegante. Se io fossi elegante, voi elegante lo siete. Ah, non mi costa fatica, è bel cappello, è il suo, ma davvero tutto ciò che ha mirato s'ha tratto abilmente. Che è troppo imprudente. No, non ridete. Rido, non so di che cosa. Sarebbe felice. Siate pietosa. Mi sento in un'altra sua scelta in vita. Già che il caso ci unisce, inneggiava l'amore. E giova la vita che ci roba l'amore. Bevo il tuo fresco sorriso, bevo il tuo sguardo profondo, parla tua bocca che disse il mio nome. contarate. Ci penso io. Lisette, attenta, c'è il padrone. Dov'è? Dov'è? Sta ferma. E la fido. Portatela laggiù. Tu trattienla laggiù, mi raccomando. Ma visto? S'avvicina, io resto. Voi andate. Non mi muovo di qua. In cauda. Non pensate. Io non penso. Buonasera, Rambaldo. Che grosso smeraldo. Lasciatemi, vi prego. Che significa questo? Mi volete spiegare? Niente da aggiungere, ma ciò che avete visto. Dunque niente di grave, una scappata, andiamo. Restate. Oh, La colpa va divisa è una pioggia insistente. Anche l'albergatore alla faccia un po' scura. Tant'è da vendicare. Chi vola per le porte due amanti schiantati? Che importa che il segreto è più grande? Guarda, dimmi, fa presto. Non l'hai indovinato. Per avere il consenso al nostro matrimonio. Ruggero, Ruggero, hai fatto questo? Perché non vuoi? Che dirti? Non so. Amore. continuare a tacere, a confessare. Cosa sei? Lo vedrai prima di sera. Quali stolte intenzioni ti passan per la testa? Alla fine mai seccato troppe, troppe osservazioni. Non mi sono rivelata, ma provando un'illusione, sono stanca di tutto. Quali sono i tuoi sogni? I miei sogni che ti porto, che ti porto. L'artista d'una sera tornerà cameriera. Sarò quella d'allora se volete, ma certo, finalmente. È una donna felice, lo vedete. Torna l'anima antica a palpitare. Anche voi come lei, Magda dovrete se non oggi abbandonare. Una illusione che credete vita. Tacete! È mio dovere, ho avuto questi incarichi e lo compio. Da chi? Da chi mi aspetta sa dei vostri imbarazzi. Ed è pronto a salvarvi in ogni modo. Non più. Mi basta, ho detto tutto. Addio per sempre. Andate. Parto, con certa gente non ho più a che fare. Ne son felice. Solo una preghiera. Deve pure ascolti. Permettete, signora. A che ora sei libera stasera? Alle 10. Ti aspetto. Mi dia da fare subito, chissà quanto penso di me ci sarà senza di me. Davvero tu rimpianta. Lasci non precipizio, ma la fortuna. Ora immediatamente vedrà, rimedierò.

no, non del questo, no, no, guarda il mio tormento. Oh, 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 L'amore Thank you.

pezzo.